pace, ma se non sei capace, se farlo non ti piace, passi nella brace, che dentro la padella sta solo chi saltella. Il salto della quaglia, il salto della quaglia, si coglie non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Il salto della quaglia, si coglie non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Gioco da ragazzi, non siamo mica pazzi, e mentre ti sollazzi in mezzo agli sghignazzi arriva il tormentone di tutta la stagione, un'unica ovazione, dai ballalo quaglione, balla la tua bella e pure sua sorella. Il salto della quaglia, il salto della quaglia, si gode e non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Il salto della quaglia, si gode e non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Il salto della quaglia, si gode e non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Il salto della quaglia, si gode e non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Si gode e non si sbaglia, il salto della quaglia, facciamoci una paglia. Il salto della quaglia, si gode e non si sbaglia. Il salto della quaglia, facciamoci.